sera ero a cena con un gruppo di coppie giovani della scuola Imera e raccontavano, secondo me, come succede spesso, senza rendersi conto di quello che stavano raccontando, nel senso che stavano aprendo una finestra sulla loro intimità di vita di coppia e sulla percezione che di questa intimità c'è nella narrazione dei bambini di una straordinaria efficacia. Dice che avevano sentito i figli, uno che diceva all'altro, bambini, stiamo parlando di bambini di 7 anni, bambini 8 anni, ma dice tutti sposi? Bambini che parlavano tra di loro, dice no, io non mi sposo, perché ti viene il mal di testa. E tu dici, dov'è l'esperienza che trasferisce al bambino la consapevolezza di quel malessere generale che definisce l'esperienza di vita di famiglia? Tutta la vita di famiglia letta nella percezione del bambino, evidentemente probabilmente nella narrazione della madre, è il mal di testa. Questa famiglia mi fa venire il mal di testa. Cioè questa famiglia non è la fonte e l'esperienza della gioia, ma della tensione, perché suppongo che sia quasi sempre un mal di testa. Per carità, c'è da farsi venire il mal di testa, tutti quanti. No, non sto discutendo se ci debba venire il mal di testa, sto discutendo quanto nella comunicazione con il figlio traspaia il senso della fatica. Questa famiglia mi pesa, il che non significa che io non voglia assumerla su di me, dentro di me, nella mia testa, nel mio cuore, nella mia fede, ma mi pesa questa famiglia, mi fa venire il mal di testa. E guardate, questa trasmissione di dati significa che in questa relazione di coppia, allora scherzando uno potrebbe ricordare, ricorderete Zeus, no? Che aveva un gran mal di testa, il mal di testa di Zeus, dal quale poi nasce Minerva. Si dice che Minerva nasce dalla testa di Zeus, proprio così, questa sorta di, che potremmo chiamarla, di generazione al maschile, no? Che è una generazione molto declinata nel senso della cerebralità della cosa, è molto, molto declinata anche in questo parto di testa, no? Noi dobbiamo riuscire a trasmettere nella vita di famiglia questa dimensione per cui lo sguardo che io mi sforzo di avere concentrato su di te, l'ascolto che io mi sforzo di avere ancora una volta concentrato su di te, non sono per me la fonte del mal di testa, cioè non abitano la tensione della mia testa, abitano piuttosto la ricchezza del mio cuore. Cioè abitano piuttosto il mondo dell'affetto, perché scaturisce una dialettica di presa in carico dell'altro in cui l'intelligenza è proprio l'intelligenza delle mie emozioni, è l'intelligenza, come dire, del cuore, che non cerca, diciamo, quegli elementi di distinzione, di puntualizzazione che in qualche modo operano delle fratture della dinamica della relazione. Ma allora bisogna veramente chiedersi se in questa vita di coppia c'è ancora la capacità di scoprire nell'altro il cambiamento. E potrebbe esserci un test, no? Che ognuno di noi potrebbe fare a se stesso. Sono in grado io di descrivere, per esempio, come è cambiato mia moglie, come è cambiato mio marito, se volete, negli ultimi 12 mesi? Abbiamo bisogno di una prospettiva. Negli ultimi 2 anni, negli ultimi 5 anni, in questo momento, in questa, sono capace di cogliere il cambiamento e di dare senso a questo cambiamento e di scegliere nuovamente, io prendo te come mia moglie, io prendo te come mio marito, con questo cambiamento. Una delle ragioni di nullità del matrimonio è la presunzione dell'errore di persona. Cioè, io credevo di aver sposato lui, ma lui è una persona totalmente diversa da quella che ho sposato. Quindi io chiedo l'annullamento del matrimonio perché io ho dato il mio sì a un soggetto che era diverso. Adesso, per carità, non è così semplice come lo dico, però è una delle cause di nullità del matrimonio. Ma il tema è oggi, perché il matrimonio oggi va in crisi così facilmente? Primo, perché io non mi rendo conto del tuo cambiamento, e quando ne prendo coscienza non mi piace quel cambiamento, non condivido, non ti avrei mai sposato. Se avessi saputo che eri così non ti avrei sposato. Ma guarda che lo spazio che c'è stato, io non ero così, io sono diventato così, e lo sono diventato con un insieme di ragioni e di fattori. Ma tu dove eri mentre io cambiavo? Dov'era il tuo cuore? Dov'era la tua intelligenza? Dov'era il tuo sguardo? Faccio un esempio banale, tirandolo fuori dall'aspetto fisico. A me così grasso non mi piace. Scusa, ma tu dov'eri mentre io ingrassavo? Dov'eri mentre... Non so se è chiaro. Dov'eri? È troppo facile dire adesso non mi piace. Ma dov'eri? Dov'era la tua testa? Dov'era il tuo cuore? Dov'era la tua fantasia? Dov'era la tua immaginazione? E allora c'è questa... È anche vero che per percepire il cambiamento c'è bisogno di un minimo di distanziamento, ma questo minimo di distanziamento io lo devo rendere, come dire, plausibile in un arco di tempo che permetta un'inversione di rotta. Ed ecco perché ho bisogno di fermarmi a guardare come stai cambiando. E anche pormela quella domanda, che può sembrare sgradevole, ma mi piace come stai cambiando. Attenzione, che molte volte ci viene detto non mi piace come stai cambiando, ma noi cerchiamo di rimuovere quel messaggio, cerchiamo di ignorarlo, cerchiamo di o di illuderci che è del tutto transitorio, e non percepiamo quando il cambiamento in realtà è strutturale. Cerchiamo per l'appunto di non vedere, di non sentire e di non dire. Cerchiamo di evitare quella che non può essere la conflittualità della litigata, ma quella che deve essere l'onestà della domanda. Pensate ad esempio in questa situazione, veramente assistiamo con dolore, con dispiacere a situazioni di questo tipo, no? Il contesto in questo momento, il contesto esterno è un contesto molto difficile per tutti, c'è una grande facilità di perdere il posto di lavoro, c'è una grande facilità che comunque chi è un professionista debba vedere comunque ridotto, penso agli architetti, penso agli avvocati, penso anche ai liberi professionisti medici, penso a tante figure professionali in cui a un certo punto, come dire, il volume dell'attività si va riducendo. Poi molte volte il volume dell'attività si va riducendo perché io dico al mio collaboratore giovane che non ho più bisogno di lui. Quindi c'è, come dire, un impoverimento progressivo di contenuto. Colpe di tutto questo, difficile dirle, è facile dire governo ladro, ma insomma anche questo non è detto che sia sempre vero. È che ci si chiede, la società ci sta sollecitando a un cambiamento, e non c'è ancora quell'intelligenza diffusa e distribuita che riesca a percepire come questo cambiamento va declinato e come in qualche modo va ribaltato, perché si ricreino quelle che sono veramente le uniche importanti condizioni di ricchezza di un paese, che sono le condizioni di lavoro, le condizioni di sviluppo, in cui poi ognuno va trovando il suo posto e la sua situazione. Beh, immaginate una situazione di questo tipo difficile, difficile per lei e difficile per lui, perché probabilmente lei e lui hanno, che so io, un capo, un direttore, sono sottoposti a una condizione di stress che da un lato ti chiede di più, da un lato ti esprime un modello di competitività più spinta, dall'altro nello stesso tempo respinge quello che tu stai facendo e ti pone come minaccia quella dell'esclusione. È una situazione difficilissima sul piano psicologico, sul piano esistenziale, perché va a incidere, a graffiare il senso dell'identità personale, e in qualche modo va a mettere in discussione il tema della giustizia sociale, perché magari scopri che lei ha una condizione di maggiore favore di quanto potresti averla tu, non riesci a capire per quale ragione. Cioè, ognuno di noi è sottoposto a una tensione comprensione, di decodificazione nel contesto in cui è immerso, molto difficile. Ci sei sottoposta tu, ci è sottoposto tuo marito, ci potrebbe essere sottoposto tuo figlio, ci potrebbe essere sottoposto tuo padre. Comunque il contesto anche del nucleo familiare in questa logica trigenerazionale, come l'abbiamo descritta, che è l'unica logica che di fatto definisce la famiglia, tornerò prima di concludere ancora una volta che solo in una dimensione intergenerazionale si dà il senso della famiglia e la relazione di coppia è condizione necessaria ma insufficiente. In questa dinamica quanto è importante lo sguardo che io trovo quando torno in famiglia? Quanto è importante se la famiglia, se in quel caso la moglie, il marito, aggiungono alla frustrazione, all'esperienza della difficoltà, anche la colpevolizzazione? Oppure quella annoiata disponibilità di non ascolto di chi dice basta ragazzi, basta lamentarti, anch'io ho i miei problemi, ma guardate, è vero che anch'io ho i miei problemi, ma se non mi ascolti tu, da chi andrò per farmi ascoltare? Probabilmente, effettivamente, cercherò qualcun altro che mi ascolti. E non c'è dubbio che quella è la peggiore delle tentazioni che ci possono essere. C'è sicuramente una tentazione che nasce nell'ambito della vita in famiglia, quella che potremmo chiamare la sollecitazione dei sensi. Assolutamente, nessuno la nega. E anzi, questo poi pone altre capacità, altre sensibilità, altre antenne, altre modalità di, come dire, di ascolto. Ma ancora più forte in questo momento è la tentazione della solitudine, è la tentazione del nessuno si occupa in questo momento di me. Per cui chiunque mi offra l'alternativa dell'ascolto, in quel momento diventa il soggetto capace di accogliermi in una sorta di grembo materno e probabilmente diventa anche il soggetto capace di rigenerarmi, magari semplicemente perché mi restituisce un'immagine più positiva di me. Allora capite come tante volte davanti alla fragilità dell'esperienza della coppia c'è davvero questa incapacità di presa in carico della difficoltà dell'altro. C'è davvero questa incapacità di assumere veramente la fatica della gestazione, ma credetemi anche in modo diverso, i nuovi dolori di parto.